chi oggi rifiuta il proprio impegno per cercare di salvare il paese, impegnarsi oggi per salvare il paese significa fare in modo che abbia successo il governo Monti e fare in modo che non abbia successo l'offensiva della Lega, che va presa assolutamente sul serio. La Lega sta scommettendo sul fallimento del debito pubblico italiano, perché se fallisce il debito pubblico italiano crolla l'euro, nasce l'euro 1 nelle aree forti e l'euro 2 o cos'altro nelle aree deboli dell'attuale Unione Europea, e a quel punto la Lega rilancia sulla secessione, perché, come fece al momento in cui sembrava che non ce la facessimo ad entrare nell'euro, pensa che la parte più sviluppata del paese deciderà di rompere con il resto del paese se dovesse risultare chiaro che, diciamo, mantenendo l'Italia unita si va verso una sua emarginazione rispetto alle aree forti dell'Europa. Se vince questo disegno l'Italia è sfacciata. Io penso che ci si debba impegnare per fare in modo invece che vinca il tentativo di Monti di salvare il paese, evitare il fallimento del debito pubblico e quindi rilanciare la prospettiva dell'unità europea e di un protagonismo italiano dentro la nuova Unione Europea. E allora io penso che chi non si impegna in maniera coerente in questo sforzo non può poi partecipare di un tentativo serio di aprire una stagione riformista dopo il 2013 in Italia.